piaci a me, quello giallo senza causa. I migliori son più cari perché sono anti. Esatto, giusto. Schiuma, soffice marmina bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia. La Libertà ve lo Shampoo radyonuzdaydı. Göber Enzo Iannacci ile 1958'in sonunda iki single çıkartıyorlar. Ve bu sırada isimleri I Due Corsari. Şimdi biz I Due Corsari'den önce Birra'yı sonra da Dormi Piccino'yu dinliyoruz efendim. Gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento, caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, il termometro è impazzito, caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, presto portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Sulle strade non c'è più verde nei giardini e il termometro è impazzito, caldo quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scuro cara, ma che sia una birra. Una birra, please. Oh yes. Birra. Dormi piccino, bello, mentre tuo babbo col grimaldello sta penetrando in un'officina a scopo di furto e di rapina. Chiudi gli occhietti sul materasso mentre tuo babbo fa tutto con scasso. Un suo compagno gli fa da palo. Se il colpo riesce ti porta un regalo, un bel motore tutto di ghisa che sta smontando laggiù alla Bovisa. Per la miseria un bullo non viene via, e nei paraggi c'è la polizia. Il tempo passa, certo un bel guaio, si orienta il babbo verso un pollaio. Dormi piccino che domattina al tuo risveglio ci avrai una gallina. Bir Enzo Iannacci Gaber oluşumu olan I Due Corsari'den Birra ve Dormi Piccino'yu dinledik. Gaber, aktris Maria Monti ile duygusal ve sanatsal bir arkadaşın ardından 1965 yılında, o zamanlar Milano Üniversitesi'nde Çince ve Rusça öğrencisi olan Ombretta Colli ile evleniyor ve 1966 yılında kızı Dalia dünyaya geliyor. Aynı yılın yazında Gaber 14. Napolitan Şarkı Festivali'ne katılıyor ve burada Alberto Testa ve Giordano Bruno Martelli'nin Aurelio Fiero ile birlikte seslendirdiği A Pizza şarkısıyla ikinci oluyor. 1966'da yine aynı yılda San Roma'ya da Pat Boone'la birlikte en büyük hitlerinden biri olan Mai Mai Valentina ile katılıyor. Şimdi biz bu iki festival parçasını arka arkaya dinliyoruz. Io ti incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronne rosa. Io ti incontrai, volevo offrirti pagandolo anche a rate, tu brillante e 15 carate. Ma tu mi pizza, a pizza, a pizza, a bumano la ingoppa, a bumano la ingoppa. Ma tu mi pizza, a pizza, a pizza, a bumano la ingoppa, a pizza e niente più. Io ti portai a dove ci stanno meglio ristorante, a dove si mangia mentre o mare canta. Io ti portai entusiasmato da tutto sta parate, ordinai luce para arrostuta. Ma tu viva aviz, aviz, aviz, abumarolangap, abumarolangap. Ma tu viva aviz, aviz, aviz, abumarolangap, aviz e niente più. Io te sposai avvicinato a folla de pariente, facevene un sacco e complimente. Io te sposai all'improvviso tra il vive e battimare, arrivai da porte cinque piane. Ma tu vive aviz, aviz, aviz, la fumarola in goppa, la fumarola in goppa. Ma tu viva aviz, aviz, aviz, la fumarola in goppa, aviz e niente più. E via aviz, aviz, aviz, la fumarola in goppa, figlia dell'Arizza. Arizza, Arizza, cado in mano alla gamba, Arizza e niente più. Pizza ve Mai Mai Valentina radyonuzdaydı. 1967 yılında Festival de la Rose'nin 4. edisyonunda Suona gitar şarkısıyla yer aldı. Şimdi bu Suona gitar, yani gitar çalıyorum şarkısı, Gaber'in sanat kariyerinde çok önemli. Çünkü bir dönüm noktasını temsil ediyor. 60'lı yılların sonlarına doğru televizyon Gaber için artık bir altın kafes gibi, bir yandan ona muazzam bir başarı getirirken öte yandan da devlet sansürünün yardımıyla gerçekten düşündüğünü yapmasını ya da söylemesini engelleyen, onu ezen bir şeye dönüşüyor. O yıllarda yazdığı Suona Gitarra pek dans edilebilir bir parça değil. Daha çok samimi bir duyguyu yansıttığı için Gaber'in çok önemsediği bir şarkı. Ve açılış sözleri şöyle: eğer gerçekten şarkı söyleyebilseydim, herkes için şarkı söylerdim. Sevinçleri ve yasları söylerdim, şarkım samimi olurdu. Ama böyle, bu şekilde söylersem kendimi beğenmiyorum. Bir palyaçoyu oynamak zorundayım. Ve böylece Gaber'in kendini bu sınırlı hissettiği televizyonla olan bağlarını kesin olarak kopartan ve artık 70'lerin başındaki şarkı tiyatrosuna geçişini de temsil eden bir parça bu. Suona Gitarra. Şimdi bu parçayı dinleyelim. Arkasından da 1968 yılında yayınladığı Lasse Diabalance albümünden Canta'yı dinliyoruz efendim. Se potessi cantare davvero, canterei veramente per tutti, canterei le gioie ed i lutti e il mio canto sarebbe sincero. Ma se canto così, io non piaccio, devo fare per forza il pagliaccio. E allora suona chitarra, facci divertire, suona chitarra, non farci mai pensare al buio, alla paura, al dubbio, alla censura, agli scandali, alla fame, all'uomo come un cane schiacciato e calpestato. E allora suona chitarra, facci divertire, suona chitarra, non farci mai pensare, suona chitarra mia, e tutti in allegria. Se potessi cantare, io sento che sarei veramente contento, ed il canto sarebbe qualcosa, la chitarra sarebbe una sposa. Ma io debbo soltanto piacere, divertire la gente e scherzare. E allora suona chitarra, suona i tuoi accordi, suona più forte che si diventi sordi. Tutto è già passato, è già dimenticato, e solo chi oggi è buono domani avrà il perdono, il foglio del condono. E allora suona chitarra, facci divertire, suona chitarra, non farci mai pensare, suona chitarra ancora, e tutti alla parola. Facci divertire, suona chitarra, non farci mai pensare, suona chitarra, muovi i tuoi accordi, suona più forte che si diventi sordi, suona chitarra, suona chitarra, suona chitarra. Suona kitarra ve canta dinledik Gaber'den. 70'lerde Giorgio Gaber artık daha çok şarkı tiyatroları ve meselesi olan şarkılarla bilinen bir sahne sanatçısıydı. Ve az evvel de izah ettiğim gibi televizyondan tümüyle koptu. Ve kendini kendi tabiriyle ara ara tekrar eden bir devrim içinde buldu kariyer olarak. Gaber'in 78-79 sezonunda Teatro Duse'de sahnelenen aynı adlı gösterisinin tam kaydı olan Polli di Allevamento, çiftlik tavukları ya da tam tercümesiyle üreme için tavuklar isimli bir eser bu. Gaber'in en kışkırtıcı ve tartışılan eserlerinden biri. Çünkü o yılların gençlik hareketini hedef alıyor. Onları biraz tiye alıyor. Bu sebeple de konformizmle de suçlanıyor biraz. Şimdi bu albümden bizlerin babaları, eski zamanki babalar böyleydi diyen babalık müessesesine dair bir parça var sırada. I Padri Miei şimdi radyonuzda. I padri miei, i padri che ci ho avuto io, erano seri e prudenti. Gli abiti grigi, modi calmi e misurati, persino nei divertimenti. Parlavano con le donne di casa, con quell'aria da vecchi padroni, quel tanto di distacco e di superiorità. I padri miei, appassionati di poesia, nei loro antichi appartamenti, sotto le lampade di vetro a sospensione, dietro discreti paraventi, parlavano e discutevano come vecchi europei ammuffiti, imprigionati dal glicine e dalla stupidità. I padri miei, i padri che ci ho avuto io, in Italia un po' strana, non han potuto fare a meno di sognare l'Africa orientale italiana. E i padri miei c'è un'aria che assomiglia alle foto dei vecchi bersaglieri che mostrano a colori la loro dignità. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. I padri miei non ispiravano allegria, chiudevano le porte a tutto, e per i giovani vivaci esuberanti non avevano nessun rispetto, univano, perdonavano come vecchi maestri di scuola, suggestionati dal cuore e dalla moralità. Ma avevano una certa consistenza e davano l'idea di persone, persone di un passato che se ne va da sé. I Padri Miei dinledik Giorgio Gaber'den. Bu hafta Itabella'dan Gaber şarkıları geçti. Umarım onun özellikle 90'lar ve 2000'lerdeki parçalarına da yer verdiğimiz bir başka programımız olur. Şimdi o dönemden 2000'lerden bir parçasıyla kapatacağız. Ülkenin bu hafta sonundaki gündemine anlam ve ehemmiyeti açısından selam veren bir parça var sırada. Siyasi sağ ve sol arasındaki sözde farklılıkları pek ironik bir şekilde vurgulamayı amaçlayan Destra Sinistra ile kapatıyoruz. Ben Cansın Sağesen, hoşça kalın. Le parole definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole, non avremmo la possibilità di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme. Le parole si logorano, invecchiano, perdono di senso. E tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare di niente. Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Quasi tutte le canzoni son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Oh, oh, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blue jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Oh, oh, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La patata per natura è di sinistra, spappolata nel purè di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La tangente per natura è di destra, col consenso di chi sta a sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. E l'un po' degli anni venti, un po' romano, è di stronzi oltre che di destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero e il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dov'è, se c'è chissà dov'è. Canticchiare con la chitarra è di sinistra, con il karaoke è di destra. I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggi calze più che mai di destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Oh, oh. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Oh, oh. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?